1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti di questo venerdì. È venerdì, eh? Urliamolo tutti insieme, Milan. È venerdì. E andiamo, signori, sono le 7:20 minuti. Allora, siamo qui con la 160esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che si conclude. Siamo pronti a leggere i giornali con tantissime notizie curiose qua e là. Oggi sono belli frizzanti, dai, sono da venerdì. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Venerdì 27 maggio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sulla relazione del neo presidente di Confindustria Boccia. Crescere deve diventare la nostra ossessione, questo è il titolo di prima pagina. Anche per il Corriere della Sera, che però coglie un aspetto di questa relazione. Riforme, sostegno da Confindustria, la ripresa non c'è, dice però il presidente Vincenzo Boccia. Questo sul Corriere della Sera. Poi la questione migranti, ancora ben in primo piano per Repubblica. Migranti dall'Unione Europea, appello al G7. Più aiuti, la crisi è mondiale. Per il Messaggero, caos, migranti, non c'è più posto. Per la Stampa, rete globale dei mercanti di schiavi. La Commissione europea denuncia un network che parte dal Messico e arriva al Mediterraneo. Per il Manifesto, il titolo con la foto di migranti in acqua, si salva chi può. E la stessa medesima foto in prima pagina dell'Unità, il naufragio dell'Europa. Ci sono dei migranti aggrappati alla bella e meglio su una barca semisommersa che chiedono aiuto. E pensate, la stessa identica foto anche in prima pagina di Avvenire, sommersi e salvati. Quando dico che le foto raccontano più dei titoli, ben tre giornali la usano questa foto in prima pagina. Queste alcune delle aperture, voglio subito però andare a leggere perché ci sono tante notizie curiose, appunto a cominciare da questa che ho trovato sul Messaggero. Attenzione, attenzione, donne, dipendenti di Rai 3, magari conduttrici soprattutto, il Messaggero informa a pagina 12, è l'unico giornale che ha questa notizia, che arriva al codice Bignardi, vale a dire Daria Bignardi, neodirettrice di Rai 3. Il codice Rai 3 sul look. Vietati abiti sexy e tacchi alti. È il decalogo per le giornaliste dettato dalla Bignardi, che racconta Marco Castoro del Messaggero ha incontrato truccatrici, costumiste e ha detto basta abiti sexy, niente tubini rigorosamente banditi quelli di colore nero, troppo sexy per la TV di Stato. E poi per quanto riguarda l'abbigliamento, trucco leggero per quel che riguarda il trucco, nessuna licenza neanche per il tacco 12, il dress code è severo, camicetta sobria, consigliati colori tenui, scollature minime, al massimo si può far prendere aria al collo, gonna o pantalone, tacco rigorosamente basso. Insomma, un look alla Bignardi, si direbbe, con un problema, scrive il Messaggero, se si vestono tutte uguali, Rai 3 non diventerà una TV nordcoreana? E comunque, come accade spesso quando in Rai ci sono disposizioni, anche stavolta regna sovrano il clima di agitazione, non tanto tra truccatrici e costumiste, le quali fanno il loro lavoro alla lettera, quanto tra le conduttrici che in molti casi dovranno rinunciare a vestire secondo il proprio stile. Anche gli orecchini, non troppo vistosi, abbastanza sobri. Insomma, Daria Bignardi detta il codice per le donne che vanno in video su Rai 3. La Rai ha deciso anche una cosa forse un po' più interessante per tutti quanti, e cioè verranno resi noti tutti coloro che prendono un compenso pari o superiore ai 200.000 euro. Questo ha stabilito il CDA della Rai. Comunque, dal Messaggero saltiamo alla questione Saviano e la scorta, perché le parole del senatore D'Anna, che ieri abbiamo fatto sentire, ospite a Un giorno da pecora, hanno suscitato un putiferio. Danna che ha detto Saviano è un'icona farlocca e bisognerebbe togliergli la scorta data a lui sulla base di questioni non vere, ha copiato mezzo libro, parla di Gomorra, insomma il putiferio, anche perché Saviano ha reagito attaccando il Partito Democratico dicendo questi sarebbero i vostri alleati, perché il senatore Danna è di ALA, cioè la compagine di Verdini, e il quale Danna ribadisce oggi a Tommaso Labate sul Corriere della Sera: una cosa è chiara, non rispondo a Saviano e confermo quel che ho detto, nella caserma dei carabinieri del mio paese non ci sono soldi per la carta o la connessione internet. Coi risparmi di scorte come quella di Saviano, di soldi per chi combatte la camorra per davvero ce ne sarebbero di più. Scusi, ma anche suoi colleghi Mazzoni e Parisi l'hanno criticata? Colleghi, visto che l'intervista è scritta, scriva colleghi tra virgolette. Questo è il senatore Danna. Via la scorta a lui e alla capacchione del Partito Democratico. E qui c'è il dibattito, il giornale Libero con Filippo Facci che dice in prima pagina in qualche modo ha ragione Danna, comunque non si scandalizza. Michele Serra sulla maca, che invece scrive su Repubblica: io Saviano l'ho visto, ho visto anche la sua scorta, e a un certo punto sbotta Michele Serra: visto che Saviano non può dirlo, lo dico io che ho qualche anno di più. Avete rotto il cazzo. La scorta non se l'è cercata, la scorta non ha cercato lui. Era un ragazzo di 20 anni, ha scritto un libro sul male, il libro ha fatto scandalo e il male nelle persone che lo incarnano e si arricchiscono forse gliel'ha giurata. Si è molto risentito. Gliel'ha giurata quanto e per quanto tempo non lo so, ma sicuramente non lo sa nemmeno il senatore Danna. Dunque se ne stia zitto. Questo Michele Serra su Repubblica. Insomma, il dibattito su la scorta a Saviano. C'è stato, signori, anche un dibattito parlamentare. Io non ci volevo credere, ma c'è stato. E poi uno dice abolire il Senato. No, il Senato va tenuto, è giusto tenerlo, anche se in forma diversa, perché altrimenti come potremmo avere interrogazioni parlamentari come quella del senatore Marco Filippi? Lo racconta Il Fatto Quotidiano a pagina 8. Il senatore Marco Filippi si è impegnato una giornata, ha scritto un'interrogazione parlamentare, è andato lì al Senato, l'ha letta, l'ha proposta, l'interrogazione è questa: il governo intervenga per evitare la retrocessione del Livorno in Lega Pro, perché nell'ultima giornata di campionato è stata danneggiata da un vistoso errore arbitrale, poi certificato dalla Moviola, cioè è stato dato un rigore con espulsione del portiere, poi col cambio del portiere il secondo portiere ha fatto un errore, c'è stato anche un dramma sportivo perché è stato preso a pugni da un tifoso. Insomma, Livorno è retrocesso, ma poi dalle immagini si è dimostrato che quel rigore non c'era, tanto che è stato squalificato per simulazione il giocatore del Lanciano. E allora il senatore Filippi dice: è stata una simulazione, è stato un errore arbitrale. Renzi, riporti il Livorno in Serie B! Interrogazione nel Parlamento della Repubblica Italiana. Tra l'altro, chiedere a un fiorentino, Renzi, di portare su e salvare il Livorno con la storia dei campanili in Toscana mi sembra una bella battuta. Va bene, comunque teniamo il Senato anche per queste cose. Vi segnalo due pagine interessanti sulla Stampa sul gioco d'azzardo legalizzato per un'iniziativa del comune di Bergamo, del sindaco del Partito Democratico Gori, Giorgio Gori. Ha deciso Giorgio Gori che emanerà oggi un'ordinanza per vietare in alcune fasce orarie il gioco d'azzardo legalizzato a Bergamo. Sarà bandito dalle 7.30 alle 9.30 del mattino, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Si gioca solo a fasce orarie. Si salva solo il bingo. La Stampa dedica due pagine, 12 e 13, dicendo che però questo per lo Stato, il gioco d'affare legalizzato, il gioco d'azzardo legalizzato, è un affare da 9 miliardi di euro l'anno, 8 milioni di giocatori abituali, quasi un milione sono a rischio ludopatia, che è una malattia poi certificata, per cui lo Stato da una parte guadagna, dall'altra parte deve spendere soldi per curare le persone malate di gioco d'azzardo legalizzato, però la decisione del comune di Bergamo fa certamente discutere. Mentre questa, lo so, mi attirerà molte critiche, ma io lo devo dire, perché ieri abbiamo letto dell'inchiesta di Dario Di Vico sul Corriere della Sera di 1 milione di bambini, 1.100.000 per la verità, bambini in povertà, in alcuni casi povertà assoluta in Italia. Eppure, cosa si fa per aiutare questi bambini? Bah, non lo so. Non lo so a livello governativo, non lo so a livello individuale, a livello di persone, ma, ed è questo il premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa pinzare della giornata, su Libero raccontano che il comune di Siracusa invece darà un bel bonus. Io ho detto, beh, a chi aiuterà un bambino? No, a chi adotterà un cane, al canile. Il bonus Bau Bau. A Siracusa dai 250 ai 500 euro per 3 anni a chi adotta uno degli 800 cani ospitati nelle strutture. E non è l'unico caso, per carità, non è l'unico comune che lo fa, ma sì, è un paese così. 1.100.000 bambini in povertà assoluta, ma il bonus a chi... aiuta un cagnolino. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. Alessandro Milan che fa il conduttore, sono cose che capitano, perché in questo paese quando le cose capitano è pieno di gente che dice sono cose che capitano. Va bene, abbiamo capito questa versione così molto serafica di questo pazzo mondo. Allora, cari ascoltatori, molti giornali aprono con la situazione difficile dei migranti. D'altronde, nelle ultime 48 ore ci sono stati sbarchi, ci sono state persone salvate in mare dalla Marina Militare Italiana. L'emergenza naufragi, come scrive a pagina 2 di Repubblica, 4.000 persone salvate in mare. E tra l'altro proprio Repubblica con Vladimiro Polchi e Fabio Tonacci a pagina 3 racconta qualche numero. Il 2016 per l'Italia potrebbe diventare l'anno dei record, tutti negativi, il più alto numero di sbarchi mai registrato, la più grave congestione delle strutture di accoglienza, il più elevato rischio di infiltrazioni via mare dell'ISIS. E l'Europa al momento non ci aiuta. Dal 1 gennaio al 26 maggio 2016 sono arrivati 40.495 migranti, cui si devono aggiungere i 4.000 salvati ieri nel canale di Sicilia. L'impennata negli ultimi giorni ha riportato il conteggio ai livelli del 2015, quando si toccarono 153.842 sbarchi, ma l'orizzonte pare ancora più fosco, perché in base alle stime del Ministero dell'Interno, il Viminale, a fine 2016 si potrebbe raggiungere la quota record di 200.000 arrivi. Adesso arriva la bella stagione, arriva l'estate e quindi gli sbarchi aumenteranno. Questa foto, dicevo, le fotografie che raccontano più delle parole a volte, questa foto è stata scelta oggi da 3 giornali, Unità, Manifesto e Avvenire, appunto per simboleggiare questo momento, persone in mare aggrappate a una barca semiaffondata. E infatti pagina 3 del Corriere della Sera è proprio questo: fotografie, le fotografie di una vita alla deriva, in quegli scatti il destino di tutti. Emanuele Trevi racconta proprio come attraverso le foto si possono raccontare alcune tragedie. A livello internazionale invece i giornali raccontano la fine, forse siamo vicini, dopo 4 anni dell'odissea, almeno non giudiziaria, ma del ritorno anche il secondo dei 2 Marò in Italia. Via libera dall'India, anche Girone torna a casa. L'ok arriva dalla Corte Suprema di Nuova Delhi dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dell'AIA. Il Marò sarà a Roma per la festa della Repubblica, non però nella parata. dei Fori Imperiali del 2 giugno. Questo, tra l'altro, è un retroscena di Fabio Martini dal Giappone, dove al G7 è Matteo Renzi, ovviamente. Il caso Marò racconta la stampa che la tentazione di Renzi era proprio quella di metterlo in parata il 2 giugno, di far sfilare anche i due Marò. Poi Renzi ci ripensa, troppe polemiche, però il primo tweet di Renzi ieri alle 8:23 del mattino, che annunciava il ritorno dei Marò, faceva capire che forse il 2 giugno avrebbe sfilato, perché confermiamo la nostra amicizia per l'India, ha scritto Renzi, il suo popolo, il suo governo, diamo il benvenuto al Marò Girone che sarà con noi il 2 giugno. Beh, insomma, abbastanza eloquente. Poi le polemiche, la versione soft, e molto probabilmente non sfilerà, anche se si racconta il governo sta pensando un modo, in qualche modo, per, diciamo così, capitalizzare questa fine di avventura, almeno dal punto di vista del rientro in patria, e farli intervenire in qualche modo anche nella parata del 2 giugno. Staremo a vedere. Intanto la politica si confronta sempre sui temi soliti. Ci sono le elezioni amministrative alle porte, ma si parla più del referendum, cioè delle elezioni, del referendum che verrà a ottobre. È incredibile, ma è così. Segnalo su Avvenire Arturo Celletti, intervista per una pagina il ministro Del Rio, ministro delle infrastrutture, che dice alla sinistra del PD: assurdi i comitati per il no al referendum, il PD non può accettarli. E conferma: se perderemo sarà crisi di governo, ma il voto non è scontato. Renzi rimane segretario del Partito Democratico e poi deciderà il Presidente della Repubblica. Ma certo, se vinceranno i no, sarebbe la fine di questa esperienza di governo. Così Del Rio, intervistato, una pagina su Avvenire. Mentre per le amministrative si litiga su cosa? Beh, è incredibile, per esempio, il Corriere della Sera racconta che hanno litigato i candidati per un'intera giornata a Roma per la kermesse che dovranno fare in TV, il dibattito in TV, il confronto su Sky. E perché hanno litigato? Hanno litigato per un'intera giornata per i sottopancia. Cosa sono i sottopancia? È come presentare in TV una persona, no? Quando appare il suo bel faccione, cosa gli si mette sotto? Si mette, non so, sotto Peter Bescapè, alpino, ecco, il sottopancia. Come qualificarlo sotto? Hanno litigato una giornata intera. Perché? Perché a un certo punto il braccio destro di Giachetti, racconta il Corriere della Sera, Luciano Nobili, il braccio destro di Giachetti, dice: noi metteremo centrosinistra. A quel punto il portavoce della Raggi, Augusto Rubei, dice: ma come centrosinistra? Non metti PD, hai paura, ti vergogni. A quel punto si scatena il dibattito nel centrodestra, perché Giorgia Meloni dice: noi vogliamo mettere centrodestra. E no, Marchini dice: centrodestra siamo noi. Nel sottopancia, non potete mettere voi, siamo noi, no, siamo noi. Insomma, hanno litigato per una giornata intera, soprattutto gli staff dei candidati sindaci a Roma. Alla fine, da Sky hanno cercato la conciliazione fino a dire: va bene, togliamo i sottopancia. Cioè, non lo so cosa metteranno, non so, nome e cognome, ma vi rendete conto. Però non litigano invece sulle cose che contano, tipo questo. Quest'articolo di Sergio Rizzo, pagina 23 del Corriere della Sera, che torna a concentrarsi sull'ATAC, l'azienda dei trasporti municipalizzati di Roma. Sentite qui, perché questa non è da mani sul volante, è quasi da mani addosso. No, per carità, non istighiamo alla violenza. Sergio Rizzo: ATAC, l'Eden dei permessi, in un anno 111.000 ore per i distacchi sindacali. E va bene, ma non è questa. La cosa che mi ha più colpito è questa. Ci sono fatti che non possono accadere in un'azienda, perché se accadono quella non è un'azienda normale. Inizia così l'articolo di Sergio Rizzo. L'ATAC, per esempio: può un suo dipendente in aspettativa dirigere una ditta privata che le fornisce gomme per milioni di euro l'anno? Ebbene sì. Il fornitore dell'ATAC in questione si chiama Gommeur. Il funzionario dell'ATAC che la dirige è Roberto Alviti, da tempo in aspettativa per motivi personali. Cioè, incredibile. Cioè, non so se avete capito, l'azienda che rifornisce l'ATAC delle gomme è privata ed è gestita da un dipendente dell'ATAC in aspettativa. E la cosa strana è che la reazione di incredulità del nostro davanti alla lettera che preannunciava il suo licenziamento. Ma perché mi mandate via? Già, perché? Chissà perché. Tanto basta per dare l'idea della mostruosità della missione che il nuovo direttore generale Marco Retti ieri si è intestardito a compiere, ristabilire alcune regole elementari. Prendete i distacchi sindacali. Nel dossier si racconta che nel 2015 sono state concesse 111.664 ore di agibilità sindacale, cioè ben 11.283 più del monte a disposizione, e che quest'anno, considerando anche i permessi retribuiti, si dovrebbe toccare quota 131.000, corrispondenti al lavoro di 82 persone, con un costo per l'azienda di 3.772.000 euro. Saluto il re dei permessi sindacali, Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, vorrei chiedere un permesso di tacere oggi. No, scherzo caro Alessandro, no, ci sono queste qui che hai letto, sono cose che capitano, dice sempre esatto. La protagonista, lo ricordavi anche prima, sono cose che sarebbe meglio se non capitassero, verrebbe da correggere. Ti voglio segnalare sul Sole 24 Ore di oggi, ricordandoti anche domani, c'è Sole 24 Ore, sai che c'è Plus domani, che tu devi leggere avidamente, come le pagine di Finanza tutti i giorni, no, compulsivamente non è necessario, ma avidamente sì, la settimana sulla Finanza e il Risparmio, e poi la domenica con la Cultura, ma restiamo all'oggi, ti voglio parlare di questioni macro molto importanti. E sai cos'è l'output gap? Hai studiato? L'output gap? No, l'output gap, no, non hai studiato, vabbè, non hai aperto il libro come al solito, ormai la scuola l'anno volge al termine, pazienza. Comunque è il PIL potenziale, cioè la differenza tra il nostro prodotto interno lordo reale e quello che si prevede potremmo avere. Per capirci, sai quando a scuola ti dicevano è bravo ma non si impegna, potrebbe fare di più? Ecco, l'output gap potrebbe fare di più. La notizia è che l'Unione Europea, dopo parecchio tempo che l'Italia protesta perché abbiamo metodi diversi di calcolo, forse adotterà il nostro sistema di calcolo. Ma se non hai capito, leggi Sole 24 Ore, come ti dico, come ti raccomando sempre di fare. Troverai una spiegazione, Davide Colombo e Gianni Trovati, che ti spiegano tutto questo, a pagina 13. Inoltre sappi che arriverà una banca dati unica per censire non 8.000 ma 8.893 società partecipate dal pubblico, fai quelle famose in cui poi spuntano le poltrone, cioè, ecco, di qualche lì. Ex politico forse. Che è stato annunciato, che va bene. Poi, ancora sul macro, sappi, lo leggerai oggi sul Sole 24 Ore, il petrolio è andato sopra i $50 al barile. Potrebbe anche non essere una cattiva notizia, ti spiega perché Sissi Bellomo da par suo a pagina 12, quindi io non ti tedio con altro. Ti invito invece a leggere come sempre religiosamente le pagine di Norme e Tributi, laddove troverai nell'ordine un seguito delle vicende di semplificazione, sai che arriverà un decreto per le semplificazioni fiscali, te l'ho già detto ieri, certo. Te l'ho già ricordato, ecco, soprattutto la parte per i professionisti, e poi la riforma del terzo settore, che attenzione, è legge, ma è una legge delega, quindi adesso bisogna fare l'attuazione. E sai che l'attuazione spesso è lastricata come quella via delle buone intenzioni, sai come si dice. Va bene, tutto ciò premesso. Come farai adesso che non mi puoi fare gli auguri per il weekend? Ma infatti sono abbastanza in difficoltà nel saluto finale, te lo voglio confessare, lo ammetto così apertamente. Vabbè, però ti potrei fare gli auguri per la trattativa con i vostri nuovi investitori. Ti ringrazio. Va bene lo stesso. Va bene. Ma no, dai, per stavolta ti dico solo buona domenica e naturalmente traffico! Alessandro Milan, il Bonovox dell'informazione. No, aspetta, forse solo il Vox dell'informazione. Sì, dai, solo il Vox, dai, vabbè, dai. Ci si accontenta, diciamo, ci si accontenta, allora. Dispiace interrompere gli U2, eh. sarebbe una rassegna stampa. Possiamo continuare con la rassegna stampa? Vabbè, dai, continuiamo con la rassegna stampa. Su. Ci sarebbero delle dichiarazioni di politici però da leggere. Perché in Parlamento hanno detto allora dicevamo dopo questo breve intro ci sono per esempio No, va bene. Peter, adesso va bene, grazie. La rivoluzione è finita, torniamo in noi. Torniamo alle notizie. Firenze, ovviamente ci sono le polemiche per il crollo del Lungarno, di parte dell'asfalto, del cemento, con le macchine finite nel buco. E il sindaco di Firenze, Nardella, oggi fa un'intervista al Corriere della Sera dicendo: qualcuno avrebbe gioito se ci fossero state vittime, è stato meschino tirare in ballo Renzi. Puro sciacallaggio politico, non è la prima volta che si usa la mia città per attaccare Renzi. Certo, questa volta le reazioni sono state molto sguaiate, come se Firenze non fosse patrimonio dell'Italia intera, ma piuttosto un'entità extraterritoriale. È ingiusto e meschino che la città diventi un bersaglio dei suoi nemici. Così intervistato da Marco Imarisio sul Corriere della Sera, il sindaco di Firenze Nardella. Che ti succede invece quando scoprono un cieco che cieco non è in realtà all'assessorato regionale dell'Emilia Romagna centralinista a Piacenza? Succede, dovrebbe succedere, che viene beccato, mandato via e magari gli si sono fatti pagare anche tutti i soldi che si è preso come falsa invalidità, ma no, scrive Libero con Peppe Rinaldi: finto cieco smascherato ma continua a lavorare e a essere pagato. Perché? Perché manca la sentenza definitiva, la regione Emilia Romagna lo tiene al suo posto finché non ci sarà la sentenza di condanna. Questo succede, abbastanza incredibile, ma Siamo in Italia. Vi segnalo solo in conclusione che c'è una bella pagina di Repubblica di Michela Bompani, a pagina 25, su cosa? Sulla classifica delle mense scolastiche italiane. È una cosa molto interessante, interesserà sicuramente molto quelli che ci ascoltano, che sono genitori, portano i loro figli in questo momento nelle scuole. Sappiate che la città dove ci sono le mense scolastiche migliori secondo questa classifica è Jesi, davanti a Trento, e poi Bologna, Pisa, Bolzano, quindi Terni, Pordenone, Firenze, Treviso, Potenza e Macerata. Questi sono i primi 10 comuni che hanno ottenuto i punteggi migliori, quindi viva Jesi, viva le mense scolastiche di Jesi e anche di Trento. Comunque è un'analisi fatta in 40 città da mamme e papà che hanno assaggiato e controllato le pietanze. Su Repubblica la trovate a pagina 25. Siamo però alla carta costa. Oggi gli animalisti poi mi vorranno molto bene, mi faranno passare un bel weekend. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo sul Giornale, dove ritorna prepotentemente Oscar Grazioli a raccontare per una intera mezza pagina dello sguardo dolce di Eiona. Chi diavolo è io? Eiona, l'erede del gatto Mannaro. Si credeva fosse una razza estinta, ma invece è stato trovato un esemplare in Sudafrica di gatto lupo. Il gatto lupo. Ma chi se ne frega!